البلاد طردوا الأجداد صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو فلسطين عربية حرة غبية القدس إلنا يا أحرار قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو قالوا يا سلام آه يا سلام لا صفقة بدنا ولا استسلام قاومنا دفعنا حتى نرجعها صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو قالوا القانون Buongiorno Palestina. 159esima trasmissione su Radio Wombat. Dedichiamo questa trasmissione alla scuola, tema che avevamo già in parte affrontato nella precedente. Con la ripresa dell'anno scolastico è proprio la scuola che è nel mirino della destra. Contro le occupazioni scolastiche e le richieste sia da parte degli studenti che dei docenti di discutere ciò che avviene in Italia contro il riarmo, contro la guerra nel mondo, in particolare in Palestina, la ripresa dell'anno scolastico vede scatenarsi un'ondata di violenze e di vandalismi di stampo fascista nelle scuole occupate. Mentre viene predisposta da parte sionista una ben finanziata campagna che grida all'antisemitismo, è in preparazione il disegno di legge Gasparri con pene salatissime per chi osa criticare Israele, strumentalizzando lo spettro dell'antisemitismo. Ne parleremo in un'intervista a Mario Sirigu, docente ad Arezzo. A seguire ascolteremo alcuni interventi dal convegno tenutosi come atto di dissenso e disobbedienza dopo la cancellazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito di un corso di formazione organizzato dal CESTES Proteo, tenutosi poi anche se privo dell'accreditamento presso il MIM. Il nuovo convegno infatti è stato organizzato dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, sempre nella giornata del 4 novembre, con il nuovo titolo «La scuola non va alla guerra, l'educazione alla pace risponde alla repressione». Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa, che in questa trasmissione sarà dedicata interamente alla scuola in Italia e in Palestina. Oggi vogliamo riportare notizie riferite a ciò che ha significato il genocidio di Gaza per l'educazione dell'infanzia, ovvero per le istituzioni scolastiche delle scuole di ogni ordine grado, molte delle quali spazzate dalla furia degli attacchi israeliani in quel territorio. Da Assopace Palestina, 20 ottobre scorso, un articolo di Sara Awad, dal titolo «A Gaza non si torna a scuola per il terzo anno consecutivo». Mentre i bambini di tutto il mondo si preparano a iniziare una nuova stagione scolastica con nuovi uniformi, cestini per il pranzo, borse, eccetera, agli studenti di Gaza viene negato il diritto all'istruzione per il terzo anno di seguito. Non c'è un ritorno a scuola per i bambini della striscia di Gaza, sono intrappolati. I bambini qui non sono in grado di iniziare il percorso scolastico, non per scelta, ma per quella che è sembrata essere una guerra infinita e una negazione ciclica. La dichiarazione di cessate il fuoco degli ultimi giorni non cambierà significativamente la situazione. A child cries, a child dies. Pictures and kiss goodbye. A child cries, a child dies. He won't go in any sky. You pull your trigger without why. Da amicizia italo-palestinese, un articolo di Helga Baumgarten da Gerusalemme. dal titolo Programma scolastico israeliano anche per i palestinesi. Lettera da Gerusalemme, vietato il programma scolastico palestinese, chiuse le scuole dell'UNRWA. Iniziato il nuovo anno scolastico, già da settembre, a Gerusalemme Est c'è un unico campo profughi, Shaufat, dove vivono gli sfollati della guerra del 48. I bambini studiano in scuole costruite dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi, l'UNRWA, che il governo Netanyahu ha nel frattempo dichiarato organizzazione terroristica. Che ne sarà degli 850 bambini in età scolastica che vivono nel campo? Dove potranno frequentare la loro scuola? Le scuole sono state chiuse di fatto poco prima della fine dello scorso anno scolastico. Di conseguenza i bambini non potranno conseguire il diploma per l'anno 2024-25. Tutti i genitori del campo, i cui figli non hanno trovato posto, devono rivolgersi al Ministero affinché possano essere assegnati. Le scuole già sovraffollate stanno quindi scoppiando. Il Ministero dell'Istruzione israeliano sta esercitando una pressione enorme con un obiettivo chiaro: introdurre il programma scolastico israeliano in tutte le scuole e bandire quello palestinese da Gerusalemme Est. Dall'autunno del 2026 sarà infatti valido solo quello israeliano. Se un istituto scolastico si rifiuterà di applicarlo, verrà chiuso e non riceverà più alcun sostegno finanziario. Attualmente quasi 23.000 bambini a Gerusalemme Est studiano secondo il programma scolastico israeliano. Si tratta circa del 27% degli scolari e studenti tra i 6 e i 17 anni. Per raggiungere il 100% verrà utilizzato un mezzo di pressione molto semplice. Attualmente a Gerusalemme Est mancano 1.500 aule, senza contare i bambini che provengono dal campo di Shaufat. Il piano quinquennale del Ministero dell'Istruzione per la costruzione di aule aggiuntive può essere applicato solo alle scuole che insegnano secondo il programma scolastico israeliano. Metodo: il governo intende educare i bambini di Gerusalemme Est a diventare buoni israeliani, che se sono solo residenti, tollerati e non sono cittadini. A questo si aggiunge una legge che è in preparazione che vieta ai laureati dell'università palestinesi di insegnare nelle scuole di Gerusalemme Est, e gli insegnanti che insegnano adesso a Gerusalemme Est potranno presto essere licenziati in qualsiasi momento, non appena esprimeranno pubblicamente le loro opinioni politiche. Questa legge viene definita la legge sulla persecuzione degli insegnanti. Lo scopo è trasformare gli studenti in una massa anonima di persone che non si sentono appartenenti a nessun luogo. Dopotutto devono capire che questo paese è lo Stato nazionale degli ebrei. Punto. Da Invicta Palestina, 28 ottobre scorso. La perdita dell'istruzione è perdita del futuro stesso. I bambini e gli insegnanti di Gaza parlano di 2 anni senza scuola. Con il 97% delle scuole distrutte o danneggiate, 600.000 bambini hanno appena iniziato il terzo anno fuori dall'istruzione formale. Studenti e insegnanti condividono le loro storie e le loro speranze. Janwira Adwan, 12 anni, di Al-Mawasi, dice: «Sono passati 2 anni dall'ultima volta che sono entrata in una vera classe. 2 anni da quando ho sentito la campanella del mattino alla scuola, mi sono seduta al mio banco e ho alzato la mano durante la mia lezione preferita. A volte ricordo ancora vivamente i suoni e gli odori, polvere di gesso, truccioli di matita, risate che echeggiavano nei corridoi, ma la mia scuola non esiste più. è stata bombardata dagli israeliani subito dopo l'inizio della guerra. I miei libri sono stati bruciati e alcuni dei miei amici sono stati uccisi. Nagla Wesha, insegnante di campo, Gaza. Insegno a Gaza da più di un decennio. Ho sempre creduto che l'apprendimento dovesse essere pieno di vita. Molti dei miei studenti sono ormai morti. I bambini che parlavano di diventare medici, artisti e insegnanti, a loro è stato negato perfino il diritto di esistere. Da La Bottega del Barbieri, un articolo di Eleonora Messana e Patrizia Zanino, dal titolo Gaza, la scuola e noi, da Torino idee e buone pratiche. È una lettera aperta ai docenti, alle docenti, educatrici e educatori dei tre ordini di scuola del Convitto Nazionale di Torino, per introdurre un progetto sperimentale promosso dalla Scuola per la Pace, Torino e Piemonte, sotto il titolo Nello specchio di Gaza, la cultura palestinese e noi. Dopo una lunga disamina storica della Palestina e di quanto sta accadendo e accaduto a Gaza, in particolare negli ultimi 2 anni, l'articolo di Eleonora Missana e Patrizia Zanino prosegue con una serie corposa di iniziative che a partire dal 19 settembre si sono susseguite e si susseguono tuttora e fanno parte integrante di questo progetto all'interno della rete informale della Scuola per la Pace, una iniziativa nata nel 2022. Il titolo del progetto è significativo, appunto, come abbiamo già detto, è Nello specchio di Gaza, la cultura palestinese e noi. Il programma è ricco di incontri, convegni, laboratori, presentazione di libri storici e di poesie, per esempio anche sul cinema è stato proiettato parte del Nazar Film Festival, poi workshop sulla letteratura con la presenza di relatori di rilievo. Tanto per fare un esempio, Elena Basile, l'ambasciatrice, Omar Barghouti, Laura Ferrero, docente di antropologia del Medio Oriente dell'Università di Torino, Chiara Pilotto, ricercatrice di antropologia, Università di Bologna, Fabiana Piretti, direttrice tecnica del Nazra Film Festival, Elisabetta Benigni, docente di letteratura araba moderna, Università di Torino e molti altri. L'articolo è corredato di tutte le informazioni utili, mail, siti web, telefono, per prendere ulteriori informazioni e contatti. Articoli del Fatto Quotidiano. Il primo di ottobre è un articolo di Serena Cavalletti, docente componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Il titolo dell'articolo: DDL antisemitismo, Gasparri non può obbligare docenti e studenti a una formazione ad hoc. Gasparri lo sa, o almeno dovrebbe saperlo. Le scuole somministrano una formazione aggiuntiva rispetto ai propri ordinamenti attraverso progetti che possono essere svolti al di fuori dell'orario. Nessuna scuola in Italia può essere tenuta per legge a organizzare una formazione su un dato tema. La formazione dei docenti, continua la scrittrice Serena Cavalletti, da un paio d'anni è contrattualizzata. Il singolo docente può scegliere di frequentare corsi di formazione a propria discrezione e preferenza. Per fare questo gode di 5 giorni di permesso annui. Oppure si può decidere di organizzare una formazione collettiva che solo a questo punto diventa obbligatoria da gestire al di fuori dell'orario delle lezioni nei modi e nei tempi perimetrati dal contratto. Il senatore Gasparri dovrebbe avere conoscenza di questo, come dovrebbe averla del diverso significato dei termini antisemitismo e antisionismo. Se il primo definisce atti di intolleranza e discriminazione verso una confessione religiosa, dunque una condotta perseguibile dal dettato costituzionale che sancisce la libertà di culto, il secondo indica la critica alle politiche imperialiste e colonialiste dello Stato di Israele. L'accostamento delle due antitesi è profondamente strumentale. Quanto la si stia tentando di forzare, la scuola non può essere piegata né con le circolari, tantomeno con lettere ministeriali alla Società Italiana degli Editori sulla verifica dei libri di storia. Si chiede allora l'autrice dell'articolo perché lo fanno, perché c'è questo atteggiamento. È pressione politica e psicologica sull'elemento considerato strategico per la costruzione di una coscienza, anche politica, nel senso più ampio del termine, ovvero partecipazione alla polis. Anche stavolta dovranno aspettare i vertici ex missini di questa maggioranza, che dovranno accettare loro malgrado il funzionamento democratico e non coercibile dell'istituzione. Possono anche chiederci di insegnare che la terra è piatta, ma noi non siamo tenuti a farlo. Di sicuro non possono impedirci di parlare dell'attualità e dire la verità. I combustibili fossili e l'ipersfruttamento delle risorse sta devastando il pianeta. Esiste il diritto di sciopero. Israele occupa illegalmente la Cisgiordania. Altro articolo molto più attuale è il 3 novembre, sempre dal Fatto Quotidiano. L'articolo porta il titolo «Il MIM annulla il convegno contro la militarizzazione della scuola. Ora resistere è imperativo». Autore Marina Boscaino. Il ministero blocca l'evento, la scuola non si arruola e avvia procedimento disciplinare contro l'ente organizzatore. La compressione degli spazi di democrazia rappresenta un disegno concreto che transita attraverso la legge 80-2025, l'ex decreto sicurezza, e il DDL 1627, disegno di legge Gasparri. Il Ministero dell'Istruzione del Merito ha annullato il convegno organizzato dal CESTES Proteo, ente accreditato presso il MIM per la formazione, e dall'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università. Convegno che si sarebbe dovuto tenere il 4 novembre con il titolo 4 novembre, la scuola non si arruola. Nella giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, gli organizzatori proponevano una riflessione sull'orrore di tutte le guerre, sulla pace, sulla pericolosa deriva cui scuola e università sono sottoposte attraverso la sempre più pressante presenza di tutto ciò che perimetra la guerra. Un esempio per tutti, forse il più lampante, ma non l'unico, sono i rapporti con la Leonardo per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro. Oltre ad annullare d'imperio l'evento, il MIM ha contestualmente dato il via a un provvedimento disciplinare volto ad accertare che il CESTES, acronimo di Centro Studi Trasformazione Economico-Sociali, possieda ancora i requisiti di accreditamento per proporre corsi di formazione ai docenti in orario di servizio. La mattina del 31 ottobre gli organizzatori sono stati raggiunti da una comunicazione del Ministero. L'iniziativa La scuola non si arruola non appare coerente con le finalità di formazione professionale del personale docente, presentando contenuti e finalità estranei agli ambiti formativi, riconducibili alle competenze professionali dei docenti, così come definite nel CCNL Scuola e nell'allegato 1 della direttiva 170-2017. In pratica il MIM sta sostanzialmente dicendo che un corso che ha come oggetto un tema estremamente attuale come la guerra, e se l'educazione debba essere educazione alla pace e al rifiuto delle armi come soluzione dei conflitti, non è oggetto di dibattito pedagogico, nonostante l'articolo 11 della Costituzione, che dice che l'Italia ripudia la guerra, spiega il CESTES in un comunicato diffuso subito dopo che l'accreditamento del convegno è stato ritirato. Istituzioni della democrazia, quali la scuola pubblica, rappresentano evidentemente una minaccia intollerabile per un ministero, per un governo che non voglia arrendersi all'evidenza che, insieme all'Italia, anche la scuola ripudia la guerra. Il dovere di resistere è oggi un imperativo per chiunque abbia a cuore la libertà di insegnamento e con essa il pluralismo e la democrazia. Evitare i conflitti è opera della politica, costruire la pace è opera dell'educazione, per citare Maria Montessori, Educazione e Pace nel 1949. C'è da dire che sul primo fronte, la politica, non siamo messi bene. Sta a noi praticare il secondo. Ogni CESTES esautorato, censurato, reso inoperativo e messo a tacere rappresenta una sconfitta per tutti noi. Reagiamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. Questo per citare Antonio Gramsci in Ordine Nuovo nel 1919. Mobilitiamoci quindi e non stanchiamoci di segnalare che quella censura offende le libertà individuali e collettive che rappresentano la garanzia dell'interesse generale. Il Ministero ha vietato il corso dopo che più di 1200 persone avevano presentato richiesta di partecipazione. Un corso con relatori importanti, promosso e appoggiato anche da realtà sociali esterne al CESTES, con le quali si voleva aprire un dibattito nelle scuole su come educare alla pace. Un terzo articolo, sempre sullo stesso argomento, lo troviamo sul manifesto del 7 ottobre. Scuola, la circolare di Valditara per imbrigliare i dibattiti. Un articolo di Albertina Sanchioni. Le deputate PD Irene Manzi e Simona Malpezzi hanno annunciato un'interrogazione parlamentare sulla nota del Ministero. È questo il cuore della circolare diffusa ieri dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, che invita gli istituti a organizzare manifestazioni ed eventi pubblici in cui sia garantita la presenza di ospiti ed esperti di specifica competenza e autorevolezza, così da permettere agli studenti di sviluppare una autonomia e opinione non condizionata, e per farlo si richiede il libero confronto di posizioni diverse. Il documento sottolinea l'importanza di educare gli studenti a cogliere la complessità della realtà che li circonda e a fuggire dalla logica della mera contrapposizione. Per Valditara, quindi, nei dibattiti organizzati nelle scuole italiane manca il contraddittorio. La nota è stata accolta con polemica dal Partito Democratico. Le parlamentari Irene Manzi e Simona Malpezzi hanno annunciato che presenteranno un'interrogazione parlamentare al ministro, perché ritengono che la circolare contenga passaggi ambigui, suscettibili di interpretazioni che potrebbero incidere sull'autonomia scolastica e sul pluralismo educativo. La scuola, affermano le due deputate, non è un luogo da sorvegliare, ma uno spazio dove liberare le idee. Solo dove si discute liberamente si educa davvero alla cittadinanza. Replica del ministro, che definisce le affermazioni delle deputate parole inquietanti, accusandole di confondere l'autonomia scolastica con l'indottrinamento. Le due deputate Dem si domandano, e ce lo domandiamo anche noi, se sia avvenuto in risposta a episodi circoscritti o come segnale di un più ampio orientamento generale di indirizzo politico-culturale. Con la ripresa dell'anno scolastico, le occupazioni si sono estese in modo spontaneo a macchia d'olio in tutta Italia. Quali sono i contenuti e quale forme di coordinamento si stanno tentando? Ne parliamo con Mauro Sirigu, un docente che vive da vicino questa situazione. Ascoltiamo l'intervista di Claudio. Con la ripresa dell'anno scolastico, le occupazioni degli studenti si sono estese in modo spontaneo a macchia d'olio in tutta Italia. Quali ne sono i contenuti e quali forme di coordinamento si stanno tentando? È quello che chiediamo a Mauro Sirigu, un docente di Arezzo, che segue da presso questa situazione. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, ringrazio innanzitutto per avermi dato l'opportunità di parlare in questa trasmissione, è un'occasione per me davvero preziosa. Io coordino insieme ad altri una rete molto estesa di docenti, si chiama La Scuola per la Palestina, ed è una rete che si organizza in 29 gruppi territoriali e che include al momento circa 4.000 docenti in tutta Italia. E negli ultimi giorni, nelle ultime settimane abbiamo letto con angoscia delle occasioni di aggressione che sono avvenute in molti istituti d'Italia. Nell'area fiorentina, ad esempio, l'ITIS Meucci con gravissimi danni al Tecnico Galilei, al Marco Polo, un'altra tentata aggressione, a Rodolico, a Russell Newton. Ci sono delle testimonianze che coinvolgono moltissime scuole di tutta la Toscana e di tutta Italia. Abbiamo notizie di scuole di Empoli, di Pisa, di Roma. Quindi l'intero territorio nazionale deve essere coinvolto da questo fenomeno, che è estremamente allarmante. Ci sono attacchi di gruppi di adulti incappucciati, coperti, armati di spranghe che hanno devastato i nostri istituti scolastici provocando decine se non centinaia di migliaia di euro di danni, e questo è un fatto gravissimo che non può essere sottaciuto. Ecco, dal punto di vista dell'ordine pubblico, la pubblica sicurezza come si sta comportando a questo proposito? Purtroppo va detto che in molti casi le forze dell'ordine sono state interpellate, ma non hanno garantito sorveglianza, perché quando chiamate hanno asserito di non poter intervenire prima di un fatto accaduto. E questo quanto è stato rilevato in numerose circostanze ed è molto preoccupante, perché richiama alla memoria altre dinamiche di istituzioni che intervengono soltanto dopo un crimine avvenuto. Mi tornano alla memoria ad esempio fatti di cronaca nera, insomma di violenza domestica, di femminicidi. La dinamica è esattamente la stessa, una situazione evitabile che invece di essere evitata si lascia che intercorra. Ecco, i contenuti di queste occupazioni contro cui si sta scatenando queste aggressioni fisiche, che cosa mi dice dei contenuti? Cioè, su quali temi vengono convocate le assemblee e gli interessi da parte degli occupanti? Allora, in moltissimi casi le occupazioni hanno avuto come tema centrale ovviamente il genocidio in Palestina. Non in tutti i casi è comunque così, alcune proteste, alcune occupazioni sono nate con piattaforme diverse, quindi la fatiscenza delle strutture, l'opposizione al DDL Gasparri, alle indicazioni ministeriali del ministro Valditara, e soltanto secondariamente hanno poi incluso comunque il tema della Palestina come tema allo stesso modo centrale. Comunque si può riscontrare come in tutti i casi alla fine ad essere colpite siano scuole in cui i manifestanti, gli occupanti, erano gruppi di ragazzi del tutto pacifici che sono stati aggrediti da gruppi armati, molto spesso di adulti e anche di ragazzi, di adulti con l'intenzione di sfasciare, di delegittimare quella che a nostro avviso è soltanto un'occasione preziosa di confronto politico, di disobbedienza civile. Queste sono le occupazioni, il tentativo dei ragazzi di riappropriarsi di spazi di democrazia e di riportare al centro tematiche che molto spesso nella scuola non si possono più trattare, le tematiche dell'attualità, le tematiche della libertà e dell'autodeterminazione, soprattutto del popolo palestinese. Ecco, su questo tema c'è diciamo, un aspetto è l'offensiva fisica che sta avvenendo. Un secondo aspetto è un'offensiva invece culturale, cioè da parte del Ministero. C'è questa raccomandazione o questa imposizione di corsi a docenti e a dirigenti scolastici, che riguarda un po' la cultura ebraica e attraverso cui si fa passare non solamente la cultura ebraica, ma la cultura sionista soprattutto. È così? Guardi, il tentativo parte da molto lontano. La nostra rete è nata durante l'estate con come primo obiettivo il tentativo di portare nei primi collegi docenti un documento unitario sul rifiuto totale dell'occupazione della Palestina da parte delle forze sioniste e con una richiesta specifica che era quella di un cessate il fuoco come primo passo per la libertà e per l'autodeterminazione del popolo palestinese e la fine del commercio di armi con Israele. Questo tentativo di portare nei collegi docenti un documento condiviso è stato osteggiato fin dal primo momento da moltissimi dirigenti scolastici che hanno agito in modo qualche volta trasparente, qualche volta meno, sotto diciamo, le dirette indicazioni dell'alto, quindi con tentativi di delegittimare queste richieste, con il ritardo nella acquisizione, nell'accettazione di queste proposte da parte dei docenti e quindi in effetti con un tentativo di ritardare e di delegittimare quella che era la libera espressione dei docenti. Quindi noi stiamo vivendo ormai da mesi questa situazione, da mesi una situazione in cui i dirigenti si fanno portavoce del governo. La nostra scuola è diventata in effetti più una scuola di governo che una scuola della Repubblica. E quindi viviamo con estrema ansia ed estrema preoccupazione quello che ci sta dicendo. Quindi non sono soltanto i corsi imposti ad alcuni docenti, ma sono anche le cancellazioni dei corsi di aggiornamento, come quello dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola, un corso di aggiornamento che doveva tenersi il 4 di novembre e che è stato cancellato con delle motivazioni assolutamente pretestuose. È una circostanza che noi giudichiamo assolutamente inaccettabile. Ecco, tornando al tema iniziale, cioè quello del coordinamento di queste occupazioni, di queste iniziative, quali saranno le prossime azioni o le prossime iniziative che intraprenderete? Allora, innanzitutto va detto che le occupazioni sono una libera e spontanea iniziativa degli studenti, studenti ai quali noi ci sentiremo soltanto di porgere un ringraziamento e un messaggio di assoluta solidarietà. Sono in effetti i nostri studenti che ci stanno richiamando alla necessità di riportare come centrale nella scuola il tema dell'attualità, il tema della libertà e dell'autodeterminazione, non soltanto del popolo palestinese, ma di tutti noi. Quindi ecco, è proprio in questa accezione che credo che debba essere collocata il nostro sostegno agli studenti. Per quanto riguarda invece quello che noi come docenti stiamo portando avanti, sono iniziative sia dal punto di vista educativo all'interno delle scuole, sia iniziative di protesta all'esterno dell'ambito scolastico, con presidi e manifestazioni e l'appoggio a qualunque tipo di iniziativa portata avanti sia da singoli gruppi cittadini, sia da associazioni, sia da sindacati o partiti politici, qualunque tipo di iniziativa sia a sostegno della popolazione palestinese che sta continuando a vivere in queste settimane momenti assolutamente drammatici. Dicono che ci sia una tregua, ma in effetti i raid israeliani non sono mai terminati, non sono mai stati interrotti, la fame e la sete continuano ad essere le prime cause di morte in quelle terre martoriate, e noi non possiamo in nessun modo accettare che questo accada in un qualunque posto del mondo, e quindi anche in Palestina. È un nostro obbligo come educatori, come insegnanti, portare questo e portare quindi un messaggio di libertà e di pace come messaggio fondante del nostro agire educativo. Grazie Mauro. C'è qualcosa d'altro che vuole aggiungere sui contenuti e sulle iniziative in atto o in programmazione? Dunque, abbiamo all'orizzonte due date molto importanti. Abbiamo quella del 20 di novembre, che è la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia, e quella del 29 di novembre, che è la giornata internazionale per la solidarietà al popolo palestinese. In queste due date prevediamo che in tutta Italia, nei nostri gruppi territoriali, vengano organizzate iniziative o nell'ambito scolastico o iniziative di presidi e volantinaggi in giro per tutta Italia. Se mi è consentito, visto che a lungo abbiamo parlato degli studenti, della loro condizione, vorrei rivolgere a loro un ultimo saluto, chiedendo loro di perdonarci se rubiamo qualche ora delle nostre lezioni per parlare loro della Palestina, ma questo è per costruire una vera e propria coscienza critica, e che ci perdonino se qualche volta in classe neanche ci entriamo per scioperare, per insegnare loro il significato della parola dignità e per restituire a bambini e ragazzi come loro una voce che è stata spenta per sempre. Ecco, un'ultima cosa, se ci vuoi ripetere il numero i numeri del coordinamento che voi state realizzando, quanti istituti e quante realtà territoriali? Allora, al momento contiamo circa 4.000 docenti che sono dislocati in 29 gruppi territoriali. Non c'è regione d'Italia che non sia coperta da una delle nostre iniziative. Organizziamo su tutti i territori assemblee regionali, provinciali, e stiamo al momento concludendo un censimento di tutte le scuole dove siamo riusciti a far approvare in collegio docenti un nostro documento di sostegno della popolazione palestinese. Una prima nostra iniziativa, che ha avuto termine ormai alla fine del mese di settembre ed è stata consegnata alle autorità nei primi giorni di ottobre, è una grande raccolta firme che ha avuto un risultato inaspettatamente positivo, oltre ogni nostra più rosea aspettativa, che è quello di consegnare appunto alle autorità 22.631 firme di docenti ed educatori in sostegno della popolazione palestinese e delle istanze di cui abbiamo parlato questa sera. Bene, grazie molte Mauro e buon proseguimento di attività. Grazie a voi, grazie mille. A cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco. Dopo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annullato il corso di formazione e aggiornamento che il CESTES Proteo, ente di formazione accreditato presso il MIM, insieme all'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole dell'Università, aveva organizzato per il 4 novembre 2025, dal titolo 4 novembre, la scuola non si arruola, è stato deciso, come atto di dissenso e di disobbedienza, di confermare ugualmente la data dell'evento con un nuovo convegno, anche se privo dell'accreditamento presso il MIM. Il nuovo convegno ha il titolo «La scuola non va alla guerra. L'educazione alla pace risponde alla repressione». A questo convegno hanno partecipato i seguenti relatori: Roberta Leoni, presidente dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, Marco Meotto come docente e ricercatore, Antonio Mazzeo, insegnante e giornalista, Miriam Abu Samra, ricercatrice e attivista italo-palestinese. Caterina Donattini, del BDS Italia. Donna Andrea Bigalli, della Facoltà di Teologia dell'Italia Centrale. Tommaso Marcon, uno studente OSA. Leonardo Cusmai, studente universitario di Cambiare Roma. Conclusioni di Roberta Leoni. Ha moderato il convegno Serena Tusini. Nel nuovo volantino appare questa dicitura: ricordiamo a tutti i docenti che il corso di formazione non è coperto dall'esonero. Questo appunto per la cancellazione del convegno originale che era stato richiesto con l'accreditamento del MIM. Ascoltiamo ora alcuni stralci di alcuni interventi. Avrete poi il link alla registrazione completa del convegno sulla pagina della trasmissione di oggi. Allora, Antonio Mazzeo penso non abbia bisogno di molte presentazioni, però lo presento comunque. Da anni si occupa del fenomeno della militarizzazione delle scuole, anzi è stato un pioniere del tema, e l'osservatorio deve molto, moltissimo alla sua ricerca e alla sua militanza attiva, perché anche Antonio è un militante. Cito il suo libro La scuola va alla guerra, che è stato un volume che ha avuto proprio il merito di non solo raccogliere dati, ma proprio offrirli poi a tutto il movimento che contro la militarizzazione delle scuole si sta esprimendo. Antonio Mazzeo non è solo questo, ha un impegno attivo contro gli interessi criminali legati alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, su cui anche ha scritto, e mi piace ricordare che ha ricevuto il premio Bassani, Italia Nostra, per la sua attività giornalistica, e anche la Colomba per la pace dell'archivio Disarmo. Allora, caro Antonio, ti passo la parola. Ascoltiamo il tuo intervento dal titolo Genocidio, crimine collettivo verso l'israelizzazione della società italiana. Prego, Antonio, state. Marco, che il governo italiano e il corpo diplomatico, non era mai accaduto che un diplomatico, il rappresentante italiano alle Nazioni Unite, attaccasse violentemente, anche in modo brutale e volgare, Francesca Albanese e soprattutto la sua relazione Genocidio, crimine collettivo, in cui cercava di spiegare le responsabilità dirette di una trentina di paesi sul genocidio del popolo palestinese, che non è un genocidio che può essere più imputato soltanto al capo del governo israeliano, né tantomeno alla coalizione di estrema destra, ultrasionista, fascista israeliana, ma che vede responsabilità dirette di governi, di forze politiche, sociali, responsabilità del mondo dell'informazione, del complesso militare industriale, di gruppi bancari e finanziari. Ovviamente la reazione del governo non poteva non essere tale, proprio perché cerchiamo di dimostrare quanto realmente l'Italia abbia le mani sporche di sangue, non soltanto le mani, direi il corpo, il volto del sangue del popolo palestinese. E lo abbiamo fatto perché anche in questi giorni, attraverso una serie di inchieste giornalistiche, si è tentato un po' di spiegare cos'è accaduto anche dopo il 7 ottobre 2023, in termini soprattutto di esportazione di sistemi d'arma da parte del nostro paese, che sono fondamentali nel genocidio, negli attacchi a Gaza, negli attacchi in West Bank, ma anche nelle operazioni sempre più diversificate, sempre più aggressive, che Israele sta lanciando un po' in tutta l'area medio orientale. Abbiamo visto gli attacchi costanti in Siria, in Libano, in Yemen, attaccato due volte l'Iran e attaccato anche in Qatar. Beh, notizie recentissime, anche attraverso una grossa inchiesta internazionale, è che in questi mesi il gruppo Leonardo, soprattutto lo stabilimento in Gran Bretagna, ha continuato a inviare componenti per i cacciabombardieri F-15, che sono stati direi determinanti nella devastazione dell'attacco a Gaza. Stesso discorso è avvenuto, lo avevamo già denunciato e provato, come componente. parti. Miriam Abu Samra è una ricercatrice italo-palestinese, titolare presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e ha svolto attività di ricerca presso l'Università della California e quella di Amman. Si è occupata della storia del movimento palestinese, dei movimenti studenteschi e del ruolo delle donne nella resistenza. Fa parte del gruppo La Conoscenza Non Marcia, un gruppo che è nato per difendere l'università e la scuola dalla militarizzazione e dalla complicità con il genocidio del popolo palestinese. E Miriam si occupa in particolare di femminismo in una prospettiva decoloniale. E quindi ora passo la parola a Miriam e penso di interpretare il sentire di tutte noi qui e anche oltre qui, di interpretare penso una fetta molto ampia di italiani ed italiane e quindi le mando un grande abbraccio di vicinanza, di sorellanza, di lotta. Una consapevolezza maggiore di quello che è il ruolo del sistema internazionale e quindi di quello che è il ruolo di una serie di settori e di una serie di politiche all'interno di questo sistema internazionale e ovviamente all'interno di ogni nostro contesto, no? Nel nostro caso appunto quello italiano, che si svelano per quello che sono, cioè meccanismi di non solo complicità, ma copartecipazione totale alla riproduzione di un sistema di violenza e di sfruttamento economico che sono due facce della stessa medaglia. Il genocidio che il colonialismo di insediamento porta avanti in Palestina è interconnesso alle politiche appunto di sfruttamento economico, ma anche di repressione e quindi anche ad una serie di politiche economiche volte a sostenere la filiera militare e a mantenere un sistema sbilanciato di poteri a livello internazionale di cui le nostre istituzioni sono protagoniste. Ecco, tutto questo oggi lo vediamo, e lo vediamo appunto grazie a quanto Gaza ci ha svelato, a quanto appunto la lotta del popolo palestinese ci ha presentato in questi 2 anni. Va però detto, e qui appunto mi inserisco con il mio intervento, che non che se per no, se si poteva concepire che di fronte anche ad una mobilitazione studentesca e popolare a sostegno del popolo palestinese, le cosiddette istituzioni mainstream, no, quelle istituzioni che da sempre sono state preposte a garantire che lo status quo non cambi mai e che invece quelle strutture di potere e di oppressione rimangano libere di agire e che restino intoccate. Ecco, se si poteva ovviamente prevedere una spinta repressiva da questo punto di vista, da queste istituzioni, meno prevedibile era invece la reazione di quella che di solito si definisce l'accademia progressista, l'accademia cosiddetta neoliberale, più aperta e che anzi addirittura proprio si fa portavoce delle istanze, diciamo, di liberazione del popolo palestinese. Mi riferisco ovviamente nella mia analisi per lo più all'università, essendo io appunto una ricercatrice universitaria, ma questo tipo di dinamica lo si ritrova anche spesso e volentieri, e questi giorni, devo dire, me lo hanno confermato proprio perché ho partecipato ad una serie di convegni, dibattiti, conferenze e così via appunto di scuole, di licei in Italia. Ecco, c'è stata da parte di questo tipo di accademia neoliberale una presa di posizione che voleva essere di sostegno al popolo palestinese e che voleva andare ad inquadrare proprio l'epistemologia, la produzione del sapere e anche proprio la narrativa rispetto alla Palestina in una concezione decoloniale, ma che invece però si è rivelata strumentale al sistema stesso. Perché è importante parlarne oggi? Perché è fondamentale andare a. Il nostro secondo relatore Marco Meotto, che è docente presso un istituto di Torino, ha collaborato come ricercatore con il Centro Interuniversitario di Storia Territoriale Casalis e e si occupa di storia sociale tra età moderna ed età contemporanea, di storia delle migrazioni e di didattica della storia, perché noi come osservatorio abbiamo sempre avuto presente, sin dall'inizio, che diciamo, abbiamo una parte, diciamo così, destruens, no? Di respingimento dei militari, vogliamo respingere i militari fuori, vogliamo spingerli fuori dalle nostre scuole, ma è altrettanto importante la parte costruens e quindi la didattica di pace che vogliamo fare a scuola, declinandola, insomma, con varie sensibilità. Marco Meotto è anche formatore dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e dell'Associazione Culturale Professionale Scuole e Società. Ha pubblicato per la terza trame del tempo un manuale di storia per la scuola secondaria di secondo grado e ha contribuito al volume Visioni del rimosso, lo sguardo cinematografico sul colonialismo italiano. È anche un militante come tutte noi, tutti noi, e quindi partecipa alle attività della Scuola per la Pace di Torino e del Piemonte, all'Assemblea Scuola Torino e al gruppo Scuola del Coordinamento Antifascista Torinese. E quindi passo la parola a Marco Meotto che interverrà con una relazione dal titolo Sguardi coloniali, il genocidio nella didattica della storia. Vai pure, Marco. Grazie a tutte e a tutti, buongiorno, saluto soprattutto quei colleghi e quelle colleghe che oggi riusciranno a seguire il convegno in questo atto di disobbedienza, come sta. C'è una definizione di taglio giuridico, ma in campo storiografico adottare una prospettiva improntata all'eccezionalità, improntata a una lettura in senso criminale del genocidio, cioè come negazione assoluta del paradigma dei diritti umani, pur essendo una lettura legittima nella sua attenzione alla specificità dei contesti, trascura l'indagine su chiavi di lettura che interpretano il genocidio invece come un fenomeno strutturale. Un fenomeno strutturale e ricorrente, direi, nella modernità. Un fenomeno così ricorrente che possiamo definirlo strettamente collegato allo sviluppo dello Stato-nazione. E in questo senso il genocidio è una delle possibilità proprie, un atto politico possibile proprio dello Stato-nazione. Tra le acquisizioni storiografiche più recenti, mi preme andare a sottolineare, ad esempio, la chiave di lettura di uno storico inglese, Mark Levin, che non è ancora stato tradotto in Italia, ma che vede nel genocidio non certo un'anomalia, ma proprio un'esperienza centrale nell'epoca degli Stati-nazione, quindi un lato oscuro della modernità stessa. Due volumi intitolati The Meaning of Genocide ripercorrono una storia di lunghissimo periodo, dal fondamento alla pace di Vestfalia dello Stato moderno per arrivare alla fine della Belle Époque, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, e cogliere in questo percorso di 400, di 350-400 anni delle continuità che ci portano alla possibilità del genocidio. Per Levin il nodo cruciale è che il genocidio si manifesta come possibilità propria, dicevo, solo all'interno di alcune strutture e ideologie che sono caratteristiche della modernità. Tra queste l'ossessione dello Stato-nazione per l'omogeneità culturale e linguistica, chiaramente, la trasformazione delle minoranze interne allo Stato-nazione in problemi da risolvere o in corpi estranei da espellere o al limite da ridurre in condizioni di totale subalternità, in modo tale che si possa raggiungere la piena corrispondenza tra il popolo e il territorio e la sovranità dello Stato stesso. Perseguendo scopi di questo genere, quindi si colgono quali sono i mezzi tipici della modernità. Da un lato l'approccio ingegneristico alla realtà, la fiducia nella capacità di pianificare e rimodellare la società secondo schemi razionali, e infine anche, e sono temi che ci interessano di più, la centralità che può avere il complesso militare e poi militare industriale in epoca novecentesca per quanto riguarda il controllo sociale. Quindi questi mezzi dello Stato moderno si combinano poi con forme ideologiche che sono quelle del nazionalismo esclusivo, ci dice Levin, i cui esiti possono essere sia un piano di distruzione o di annientamento o un piano di sottomissione di intere componenti di una popolazione.

subito la parola a Roberta Leoni, che è presidente dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università. È una docente, insegna in un liceo di Bracciano, vicino a Roma, e la nostra presidente, da cui tutte ci sentiamo così ben rappresentate. E quindi a Roberta Leoni passo la parola con tanta stima. Roberta interverrà con una relazione sulla militarizzazione e repressione nella scuola. Allora, a te Roberta. Grazie Serena, anche per la presentazione. All'Expo Training di Milano si sono svolte delle lezioni di scuola di armi. Potete vedere dalle immagini adolescenti che impugnano mitragliette con la guardia penitenziaria che dice appunto come tenerle in mano, come impostare il dito medio e come premere. Che cosa è successo che ci ha un pochino scandalizzato? Faccio prima una premessa che questa cosa dell'Expo Training era un evento già accaduto a scuola di Manganello lo scorso anno, sempre agli Expo Training, scusate. Qui potete la pagina dell'Osservatorio che ricorda appunto il fatto, no? Lezioni di Manganello fatte con la polizia, quindi è un qualcosa che è recidivo. Allora, che cosa succede? Dimostra appunto i tuoi atteggiamenti del Ministero. Da una parte censura il nostro corso, dall'altra parte invece è silente sui fatti di Milano. Allora, noi ci siamo posti il problema come chiamare appunto il MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito o Ministero dell'Istruzione Militare, battuta che sta girando questi giorni appunto in relazione alla censura del nostro convegno. Allora, dico due parole su questa censura. Perché è avvenuta? Valditara scrive che i contenuti e le finalità del corso erano estranei agli ambiti formativi richiesti appunto da tutti i corsi professionali secondo il nostro contratto e cita la direttiva 170 del 2016. Allora, gli ambiti che questa direttiva prevede, tra gli ambiti c'è anche cittadinanza attiva e legalità, sostenibilità e didattica disciplinare, per esempio sarebbe rientrato nell'educazione civica ma anche nella storia. Noi in fondo volevamo parlare, faccio veramente una sintesi dei contenuti, di disarmo, pace e sguardo decoloniale nonché della Palestina. Allora, perché è stato annullato questo corso? L'ha in parte anticipato Serena. Gli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre, che hanno visto una partecipazione che oscillava tra il 9% e l'11% nel mondo della scuola, probabilmente ha sorpreso il ministro. Non solo, il comparto scuola, nonostante tutte le intimidazioni ricevute dai dirigenti scolastici e per esempio nel Lazio abbiamo avuto la circolare del 3 settembre che vietava i collegi docenti di parlare di cose che esulassero dalla semplice amministrazione della scuola, i collegi docenti hanno continuato a produrre mozioni di solidarietà con il popolo palestinese, hanno raccolto firme cioè fisiche e online e lavorato in classe sul tema della pace e del dialogo come risoluzione dei conflitti, nonché hanno affrontato il tema della Palestina. Il decreto Gasparri di prossima, speriamo non venga confermato, è appunto un tentativo di mettere anche quello un bavaglio. Allora, il malcontento nella scuola sta crescendo per tutta una serie di motivazioni che provo a sintetizzare proprio velocemente, dico le principali. Una è la verticalizzazione del potere dei dirigenti scolastici, l'altra la perdita del potere d'acquisto dei nostri stipendi contro gli investimenti per il riarmo. E l'altra è la privatizzazione del nostro settore. Io vorrei fare solo un esempio, la letterina di Valditara che ci informa di come a breve avremo un'assicurazione sanitaria. Vorrei ricordare anche gli elevatissimi costi dei corsi di formazione abilitanti, reclutamento scolastico, parola militare. E vorrei anche ricordare la scemenza di una serie di sconti, di accordi che sta facendo Valditara per noi docenti, di beni di consumo non essenziali. Io ho subito controllato i viaggi per un interesse mio personale, però insomma è imbarazzante la cosa. In più i tagli alla scuola. Faccio solo un esempio, la nuova finanziaria prevede l'utilizzo del potenziamento per le supplenze nelle scuole superiori. Allora, detto questo, io vado al dunque del nostro lavoro. Allora, che cosa si intende per militarizzazione delle scuole? Allora, due significati, qui nelle diapositive potete vederli, io parto dal secondo. Allora, militarizzazione della scuola è quel processo di contaminazione, questo termine è utilizzato dal ministro Crosetto, tra il mondo dell'istruzione, Crosetto lo usa per la società civile, tra il mondo dell'istruzione e le forze armate, le forze dell'ordine, le industrie belliche, in primis la Leonardo e la NATO, proprio tentativo di contaminazione. Su questo io non mi soffermo tanto oggi perché basta andare sul sito dell'osservatorio e voi avete prove e controprove di come si sta sviluppando. Anche di costruire un futuro diverso, lo ricordava Miriam, un futuro diverso, migliore per loro stessi e poi per noi tutti. Allora do la parola a Leonardo di cambiare rotta, che interverrà sull'università ai tempi della crisi tra militarizzazione, repressione e riforme. La governance aziendalistica sarà orientato complessivamente da un commissario di nomina ministeriale. Oltre a questo, in compenso, i rettori potranno restare in carica per mandati non più di 6, ma di 8 anni e rinnovabili, quindi fino a 16. È in corso, secondo noi, una blindatura antidemocratica delle governance universitarie che il Ministero di Anna Maria Bernini sta promuovendo in maniera molto convinta e che fa pensare, l'abbiamo scritto recentemente, a quella frase che si leggeva sui vecchi tram: non disturbare, vietato disturbare il manovratore. In che senso? Noi crediamo che il governo in carica, quello dei cosiddetti fascisti dentro, da Meloni a Gasparri, da Bernini a Salvini, stia svolgendo una funzione ben precisa: portare avanti con metodi dirigisti e governisti e polizieschi il processo di trasformazione di scuole e università indicato ormai da qualche anno dall'Unione Europea, rappresentato forse al massimo grado da governi tecnici come quelli di Monti e Draghi, ma ancor prima sostenuto dal centrosinistra europeista. E cerco di spiegarmi: se adottiamo questa chiave di lettura, noi possiamo provare a comprendere quello che sta succedendo come il tentativo di costruire per gli atenei governance accademiche adeguate a rendere università e ricerca ancora più funzionali di quanto non siano già agli obiettivi governativi e quindi governabili senza intoppi. Per dirlo un po' più in maniera semplificata, creare una stabilità politica funzionale agli obiettivi strategici di sviluppo produttivo e gestione finanziaria. Quali sono questi obiettivi? Un po' è emerso dagli interventi precedenti. Da un lato la scuola, ma anche l'università, di fronte a una credibilità delle classi dominanti che cala a picco, devono essere rinforzate nella loro funzione di apparati ideologici di Stato, questo anche Tommaso lo ricordava, quindi adatti a plasmare coscienze subalterne e allineate, anche Miriam su questo è intervenuta. Dall'altro lato, la formazione rappresenta un cardine del processo di integrazione dell'Unione Europea anche dal punto di vista economico-produttivo. E questo tira in ballo tre questioni per schematizzare: che tipo di lavoratori occorre formare, che tipo di rapporto deve esserci tra formazione e filiere produttive, anche militari, e collegato a questo, che livello di militarizzazione occorre produrre nell'assetto complessivo del sistema formativo. Provo a accennare delle risposte a partire dall'ultima questione, quindi quella della militarizzazione. In questo momento noi abbiamo un'Unione Europea schiacciata nella morsa tra gli Stati Uniti di Trump e l'emersione dei nuovi competitor a livello internazionale. E una Unione Europea che sta evidentemente dandosi degli obiettivi di rilancio economico che fanno della guerra una linea strategica su cui basare la competitività a livello internazionale. È un po' il piano Andrea è Draghi-Gates questo. parroco. Grazie, Don Andrea. E dicevo, appunto, è parroco a Sant'Andrea in Percussina, a San Casciano a Firenze, e attualmente referente di Libera per la Toscana ed è nel direttivo della rivista Testimonianze. Oltre a essere un docente all'Istituto di Scienze Religiose della Toscana e membro del comitato scientifico del Centro di Documentazione, Comunicazione Generativa Scienza Atque Usus, e ha affrontato il tema del pensiero di Don Milani, sia in rapporto alla scuola che al suo stimolo nel riorientare la società alla consapevolezza e alla speranza. È stato anche uno dei sostenitori, con Don Giovanni Ricchiuti e padre Alex Zanotelli, della raccolta firme e della mobilitazione Preti contro il genocidio, per denunciare i crimini contro la popolazione palestinese a Gaza e sostenere la pace. E credo che oggi, un Don Andrea possa ben rappresentare una delle tante anime del nostro osservatorio che anche un po' incredibilmente sta riuscendo ormai da quasi 3 anni a tenere insieme tante anime, tante culture politiche, dal sindacalismo di base alla spinta alla pace che viene dal mondo cattolico. Ci stiamo riuscendo perché pratichiamo veramente un'orizzontalità all'interno dell'osservatorio. E quindi Don Andrea oggi penso rappresenti appunto una di queste anime. E allora Don Andrea, do la parola e ci parlerà di libertà delle coscienze e il significato della disobbedienza. Prego. La scuola di Barbiana è una scuola, come sapete, particolare, che quindi vive di umori di segno diverso. Guardate, voglio ribadire la non unicità della figura di Lorenzo Milani. Lui stesso parla di Mario Lodi, ma parla di alcuni riferimenti. Insomma, sappiamo sicuramente che ha seguito con attenzione le esperienze di Capitini, di Danilo Dolci. C'è tutto un humus culturale, in primis quello fiorentino. Ricordiamoci il sindaco Giorgio Lapira che pone nell'agenda politica cittadina la questione della pace, organizza i cosiddetti colloqui del Mediterraneo, quindi la prospettiva per cui si radunano i sindaci delle città che hanno subito l'affronto della Seconda Guerra Mondiale, perché la sensibilità politica può essere più precisa e rilevante dove si amministra dovendo rispondere a delle città che sono state così violentate dalla guerra. Padre Ernesto Balducci, che a tuttora resta con l'uomo planetario, un altro dei grandi testimoni sulla cultura della pace del dopoguerra, e mi permetto di aggiungere anche David Maria Turoldo, perché insomma, la poetica contro la guerra a difesa dei poveri è stato uno degli elementi importanti e fondamentali. La scuola di Barbiana, quindi. L'obbedienza non è più una virtù, nasce in un contesto pedagogico. Questo lo dobbiamo ricordare con molta attenzione, che se è vero che c'è un retroterra giuridico molto immediato e concreto, è anche vero però che l'alveo è veramente quello di una scuola in cui si cerca di analizzare puntualmente tutto ciò che accade, filtrandolo attraverso gli strumenti di conoscenza che si hanno a disposizione, soprattutto per quanto riguarda il livello etico-morale. Allora arriva una notizia, cioè che c'è stata una presa di posizione dei cappellani militari contro l'obiezione di coscienza. A Barbiana se ne parla, come si discute usualmente, e si decide di scrivere una lettera, che è appunto la lettera ai cappellani militari, i quali non la prenderanno benissimo e denunceranno Lorenzo Milani per apologia di reato in un momento in cui ci sono altre dinamiche in corso. Vi ricordo che il sindaco Lapira proietta in Palazzo Vecchio un film francese, Non ucciderai, che in qualche modo introduce la tematica dell'obiezione di coscienza. Anche lui viene denunciato. E padre Ernesto Balducci sosterrà Lorenzo Milani in questo percorso e anche lui sarà giudicato e condannato per apologia di reato. Lorenzo Milani, che è impossibilitato a intervenire al processo a suo carico, scrive una lettera ai giudici. Se la lettera ai cappellani militari presenta le motivazioni di un rifiuto, all'insegna di una rigorosissima lettura storica, la lettera ai giudici invece va su un piano, direi anche più filosofico, etico e morale, anche se il livello di lettura della prospettiva storica rimane fondamentale. Qui definisco un primo inciso perché parlando in un contesto in cui ci si confronta fra insegnanti, beh, insomma, siamo tutti consapevoli della crisi culturale che ci stiamo trovando a fronteggiare, però la risposta non può che essere un rinnovato rigore espressivo delle conoscenze, delle competenze. Perché indubbiamente, se c'è una dimensione su cui possiamo contrastare queste modalità di governo che si stanno sempre più affermando a livello globale, è sicuramente il livello della conoscenza. C'è un problema serio, cioè quello della comunicazione, cioè come noi poi possiamo essere in condizione di riversare questo livello di competenza per contrastare quello che mai è sicuramente, insomma, un'onda negativa rilevante. E a riguardo io forse con formule un po' fondamentaliste, perché insomma è un difetto, è una tentazione che albeggia dappertutto, sto cominciando a sostenere anche con gli auditori più giovani che bisogna uscire dall'informazione generalista il più velocemente possibile e riprendere in mano le reti alternative di informazione. Ne avremo, ne abbiamo avuto, pensate a PeaceLink, sono tutti strumenti che dobbiamo ricostituire e rigenerare, secondo una sensibilità nuova. Se vi posso permettere, anche facendoli gestire in prima persona alle ragazze e ai ragazzi stessi. Quindi bisogna rimettergli in mano questo livello comunicativo. Milani parte da una considerazione, che di fronte a tutto ciò che accade non ci si può sottrarre da un giudizio etico-morale. E lo strumento prevalente che viene invocato è quello della coscienza. Milani dice: questa è una dimensione su cui tutti quanti dovremmo essere d'accordo, laici e non, credenti e non credenti, credenti e diversamente credenti, tutte le categorie possibili e immaginabili. Perché? Perché per un laico la coscienza sarà la possibilità di attingere a un patrimonio etico-morale preciso e determinato e deve essere continuamente studiato e introiettato in maniera positiva. Per un credente, dove si attinge alla dimensione della rivelazione biblica. Quindi Milani, nel proporre il primato della coscienza, tra l'altro, secondo, credetemi, un presupposto abbastanza preciso della teologia cattolica, riporta però la questione da una dimensione individuale a una dimensione storico-politica, perché la coscienza è dove si articola propriamente la tua dimensione ordinaria, anche di vita quotidiana, e quelli sono i tuoi ideali di riferimento in relazione anche alla scelta etica che tu devi compiere giorno per giorno. Ci sono atti morali o etici che sono più o meno indifferenti, ce ne sono di fondamentali. Il problema è ricostruire la sovranità dell'individuo di fronte a una collettività a partire proprio dalla formazione della coscienza. Questo è uno dei temi fondamentali milaniani, come l'individuo possa porsi di fronte alla collettività attraverso lo strumento della legge. Ecco la questione dell'obiezione di coscienza, ma ecco anche la grande prospettiva, della scuola di Barbiana, che Milani dichiara nella lettera, nel corpus dell'obbedienza non è più una virtù, dicendo: attraverso i miei studenti io posso leggere il mondo che sarà, perché loro saranno un giorno capaci di fare leggi diverse dalle altre. E è l'idea dell'importanza del diritto, ma soprattutto del come il diritto deve continuamente mutare, conservando però questo riferimento fortissimo a un umanesimo di base. Guardate, Milani dice delle cose nella sua analisi storica ad un'attualità impressionante, perché sicuramente è uno dei primi autori che pone il problema del come le guerre stanno evolvendo. Milani, metà degli anni 60, scrive che ormai la guerra si fa contro i civili tutelando i militari. Racconta la Seconda Guerra Mondiale come una guerra in cui la prospettiva si sta cambiando e racconta la guerra di Corea come la prima guerra in cui i civili morti hanno superato i militari caduti, secondo un'escalation che noi adesso vediamo in questa forma terribile. Al di là del dibattito utile e necessario, su cui anch'io ho una posizione precisa e determinata, cioè che si sta compiendo realmente un genocidio, è anche però importante sottolineare che tutte le guerre ormai sono genocidi, perché comunque tutte le guerre puntano all'eliminazione fisica di un popolo attraverso la propria dimensione dei civili. C'ho dei dati che credo anche qualcun altro abbia sotto mano, forse magari ce l'ha anche più aggiornati di me, per cui su 100 caduti nella guerra contemporanea, solo 7 sono militari, 93 invece sono civili, e di questi 93, 37 sono bambini. Però io ho l'impressione che siano dati, appunto, che vanno rivisti purtroppo alla luce di quello che sta accadendo in molti dei focolai di guerra in questo momento storico. Noi giustamente focalizziamo su Gaza, che ha una portata storica, purtroppo. drammatiche anche per le implicanze filosofiche, teologiche, sociali, storiche, a tanto titolo, però ricordatevi, ci sono, come sapete bene, senz'altro, moltissimi conflitti dimenticati e sommo un po' di più come un movimento per degli operatori e delle operatrici di pace, ma era veramente la realtà fondamentale, è l'economia che uccide, a tanto titolo. Ed è un'economia, e torno a Don Milani, che smarrisce un umanesimo di fondo. Questa è la prospettiva. Un umanesimo però che è severo e preciso perché parte da una dimensione di scelta determinata, l'osservatorio prevalente di Lorenzo Milani, cioè il mondo della povertà e dell'esclusione sociale. Anche questo è un elemento fondamentale che noi dobbiamo ricordare. Milani lo scrive chiaramente, la guerra è l'evento classista per definizione, perché la decidono i ricchi, ma la fanno i poveri e ci muoiono prevalentemente i poveri. Ben pochi ricchi poi in realtà vanno a fare la guerra. E attenzione perché se possiamo, potremmo ipotizzare in qualche modo che questa categoria ricchi-poveri sia sociologicamente un po' scarna. Beh, insomma, le realtà del mondo comunque restano quelle, eh? Si possono trovare anche diverse classificazioni sociologiche e culturali, ma insomma resta il fatto che a una parte consistente del mondo viene impedito l'accesso a questo punto anche alle potenzialità più dirette di vita, eh? E questa è un'altra delle grandi questioni milaniane. Quindi capite bene che all'interno di questa cornice il tema della coscienza diventa ancora più rilevante. E diventa il tema della responsabilità. Ci sarà poi un percorso filosofico. Pensate a un grande autore come Hans Jonas, che non a caso esce da una crisi. Era questa la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 26 novembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. وحدي وطنيي صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار صفقة تشاو صفقة